giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La metalmeccanica in Friuli tiene, secondo gli ultimi dati, produzione ed esportazione in linea con l'ultimo rapporto. Tornano a crescere gli ordini. Trieste Trasporti, guasto informatico manda il tilt, il display sul bus, i numeri delle linee sostituiti da tabelle, fuori uso anche il servizio per il pagamento dei biglietti a bordo dei mezzi. Più di 600 operatori sanitari e sociosanitari coinvolti in quasi 500 aggressioni in regione nel 2023, il rapporto dell'Osservatorio Nazionale. Squalo e Anna Lutman, direttrice dell'ARPA, diventa la prima donna a rappresentare i territori nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Squalo elefante avvistato nel Golfo di Trieste al largo dei filtri e lungo 8 metri si ciba di plancton. Un volume rilegge la storia dell'alpinismo, l'ha scritto un docente dell'Università di Udine. Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. I temi dell'economia in apertura, parliamo del settore metalmeccanico, settore che tra le aziende della provincia di Udine sta mostrando una sostanziale tenuta nella produzione e nelle esportazioni. Riprendono quote invece gli ordini. Nell'ex provincia di Udine nel 2023 i livelli produttivi nel settore meccanico sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2022, mentre si è registrata una leggera flessione nel comparto della siderurgia. L'industria metalmeccanica della provincia di Udine, secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Unioncamere, conta 25.000 addetti, il 51,7% del totale degli addetti manifatturieri provinciali e il 38,7% degli addetti metalmeccanici regionali, tutto in 1.800 localizzazioni. In particolare nel settore meccanico lo scorso anno si è avuto un lieve calo produttivo dello 0,3%, mentre nel settore della siderurgia la diminuzione è stata maggiore, del 3%, con un recupero solo nel quarto trimestre. Le esportazioni, secondo l'ufficio studi di Confindustria Udine sull'elaborazione dati Istat, nel 2023 hanno registrato una flessione dell'1,7% rispetto al 2022, passando da 5.216 a 5.161 milioni di euro. Nel dettaglio sono aumentate in particolar modo le esportazioni di computer e prodotti di elettronica, di apparecchiature elettriche, di macchinari e altri mezzi di trasporto, mentre evidenziano una caduta dei flussi in uscita i prodotti della metallurgia, quelli del metallo e gli autoveicoli. Nonostante il contesto economico e il quadro geopolitico non siano al momento dei più favorevoli, sono nuovamente positivi gli ordini per i prossimi mesi per il comparto della siderurgia, mentre permangono negativi per la meccanica. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste un'anomalia che ha colpito il sistema informatico per il monitoraggio degli autobus sta interessando da ieri sera Trieste Trasporti. L'ho fatto sapere in una nota sui social la stessa società di trasporto pubblico. Un aggiornamento del software, si specifica, ha bloccato la trasmissione in tempo reale delle informazioni dalla centrale agli autobus e agli orari elettronici installati alle fermate. Il guasto potrebbe impedire il funzionamento dei display anteriori degli autobus, degli orari elettronici, dei monitor di bordo e degli indicatori di fermata. Fino alla risoluzione del problema, gli autobus avranno esposto in fronte il numero di linea su un cartello. In contemporanea, ma per cause diverse, ossia per una serie di stress test sul sistema elettronico, anche il servizio pagamento a bordo dei mezzi con carta di credito o bancomat potrebbe registrare malfunzionamenti o momenti di sospensione. Lo scorso anno più di 600 operatori della sanità regionale sono stati oggetto di aggressioni. Il numero è contenuto nella relazione trasmessa in questi giorni alle Camere. 629 operatori sanitari e sociosanitari, 500 dei quali infermieri e OSS, coinvolti da 483 aggressioni in Friuli Venezia Giulia nel 2023, più di una al giorno. Aggredite donne nel 75% dei casi. Fenomeno in crescita, indica l'Osservatorio Nazionale Dedicato, operativo da un paio d'anni, sua la relazione trasmessa al Parlamento e compilata sulla base dei dati delle regioni. In Italia circa 18.000 gli operatori coinvolti l'anno passato, ma si tratta di un dato parziale che tiene conto quasi solamente delle strutture pubbliche. Tornando al Friuli Venezia Giulia, il fenomeno è quotidiano. L'88% delle volte volte l'aggressione avviene in un giorno feriale, soprattutto in ospedale, nelle aree degenze, nei servizi psichiatrici e in pronto soccorso. 420 aggressioni verbali, 141 di tipo fisico, 28 contro la proprietà. Inoltre il 70% dei casi sono i pazienti a lasciarsi andare in eccessi contro il personale sanitario. Tra le raccomandazioni INAIL per contrastare il fenomeno, meno burocrazia, eliminazione delle barriere linguistiche, riduzione dei tempi di attesa, e qui concorda anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Tiberio, che pone il tema della appropriatezza prescrittiva, ma anche telecamere e formazione sulle tecniche di raffreddamento dei contrasti. La carenza di personale sanitario è individuata sia tra le cause che tra gli effetti del fenomeno. Agli episodi di violenza sono connessi depressione, esaurimenti nervosi e stress post-traumatico. Sono e resto fermamente convinto che i sanitari, qualsiasi ruolo ricoprano, vanno difesi sempre e comunque. Il commento dell'assessore Riccardi. Questo pomeriggio, nel corso di un incontro, gli ordini degli infermieri chiederanno l'istituzione anche di un osservatorio regionale sulle aggressioni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I ragazzi dai 14 ai 18 anni sono chiamati a compilare un questionario sulla violenza di genere, 10 minuti del loro tempo per tastare la loro consapevolezza sul fenomeno della violenza degli uomini contro le donne. L'iniziativa è della Garante Nazionale per Infanzia e Adolescenza Carla Garlatti, che abbiamo intervistato. Fuori casa ti senti al sicuro? Hai mai subito violenza? Conosci persone vittime di violenza? Sai cosa sono il numero 1522 o il segnale di aiuto? La violenza di genere riguarda anche i giovanissimi e può assumere forme diverse. Tu quanto ne sai? È pensato per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il questionario online promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza è ospitato sul sito dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Una serie di domande mirate agli adolescenti per capire se e quanto sanno riconoscere situazioni di violenza di genere e discriminazione. Molte volte i ragazzi non si rendono conto di relazioni che hanno una natura tossica, che può degenerare, ad esempio un controllo eccessivo del telefonino, il fatto di dire ma perché non resti con me invece di uscire con gli amici. Ecco, non sono manifestazioni di affetto, ma sono sintomi pericolosi di una relazione che può degenerare. Il questionario è di facile accesso, si riesce a completare in pochissimi minuti. A cosa serviranno queste risposte? Per capire come indirizzare degli interventi che siano preventivi e di contrasto. E più saranno i ragazzi che vi partecipano, più noi avremo un quadro definito di quelle che sono le esigenze, di quelli che sono i punti sui quali andare ad incidere. Interessanti le domande che vanno ad indagare la violenza subita o percepita, ma anche quella potenziale. Per esempio, ti è mai successo che il tuo partner ti controlli il cellulare o il profilo social? Nel caso, come reagiresti? Il questionario è stato realizzato grazie anche alla partecipazione dei giovani stessi attraverso la consulta dei ragazzi e delle ragazze, un gruppo di adolescenti dai 13 ai 17 anni che fa da consulente all'autorità garante. Capire, sapere che quali sono le esigenze dei ragazzi, quali sono i loro pensieri è per noi fondamentale per poterci muovere. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Fra il 1 marzo 2020 e il 31 gennaio 2023, dunque in poco meno di 3 anni, 1.444 dipendenti del comune di Trieste, quasi il 62,5%, è risultato positivo almeno una volta al SARS-CoV-2 e 262, il 18%, almeno 2 volte. Solo 20 lavoratori sono stati ricoverati in ospedale per malattie gravi, quindi il 99% delle infezioni è stato lieve o moderato. Al termine del periodo in esame, il 55% dei dipendenti era stato vaccinato con almeno 3 dosi di vaccino, mentre il 19,7%, quasi 500 persone, era rimasto non vaccinato. Sono alcuni dei dati contenuti in uno studio appena pubblicato su una rivista scientifica internazionale, realizzato da Luca Cegolon e Francesca Larese Filon dell'Università di Trieste. Mettendo in relazione coperture vaccinali e infezioni, lo studio ha confermato l'effetto protettivo della vaccinazione contro le infezioni sintomatiche, evidenziando non solo l'importanza di dosi di richiamo continue per mantenere nel tempo l'immunità, ma anche l'importanza di formulazioni vaccinali aggiornate per prevenire e controllare la diffusione di un virus altamente mutabile. E ora diamo uno sguardo al tempo, con cielo in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 12 gradi e mezzo a Gorizia, 16, 15 gradi a Udine e a Pordenone, a Tolmezzo 13, Forne di Sopra e Tarvisio 10 gradi e mezzo, a Piancavallo 6 gradi e 5 decimi, a Sappada 5 gradi, sul Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, su Lussari 1 grado, sulla costa a Lignano e a Grado 13 gradi e 5 decimi. Previsione a cura dell'ARPA, nelle prossime ore avremo cielo prevalentemente sereno, nella notte possibili nebbie, specie sulla pianura pordenonese e sulla fascia lagunare. Domani su pianura e costa avremo cielo da sereno a poco nuvoloso per nubi alte, sulla zona montana cielo variabile con maggiore presenza di sole al mattino e nuvolosità più consistente nel pomeriggio, specie sulla fascia prealpina. Fino al mattino saranno possibili foschie o locali banchi di nebbia su pianura e fascia lagunare. Marcata escursione termica giornaliera. Uno squalo elefante di circa 8 metri è stato avvistato nel Golfo di Trieste. Già domenica era stato notato nelle acque antistanti i filtri di Aurisina. È la seconda specie di squalo più grande al mondo dopo lo squalo balena, ma è assolutamente innocuo per l'uomo. La sua pinna, avvistata domenica nelle acque del Golfo di Trieste, ha diffuso apprensione tra i triestini, ma non c'è niente da temere. Quello che per alcune ore ha nuotato di fronte alla spiaggia dei filtri è uno squalo elefante, detto così perché sul muso ha una protuberanza che ricorda una proboscide. È considerato, dopo lo squalo balena, il secondo pesce vivente più grande al mondo. L'esemplare avvistato è un adulto di circa 8 metri ed è innocuo per uomini e per altre specie marine. Piuttosto è lui ad essere in pericolo, ci spiega Diego Borme dell'Istituto di Oceanografia di Trieste. La conservazione della specie è considerata infatti a rischio, perché in passato l'animale era cacciato e il suo fegato utilizzato per produrre oli ricchi di vitamine e oli per usi industriali. Lo squalo si è avvicinato a riva probabilmente alla ricerca di plancton, di cui si nutre. È capace di lunghe migrazioni, dunque è probabile che si sia già allontanato da Trieste. Gli avvistamenti di squali elefanti sono frequenti, soprattutto in primavera e di solito nella zona di Punta Salvore. I biologi dell'area marina protetta del WWF ringraziano per la segnalazione, che sarà utile a mappare i movimenti della specie. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È cominciato a Pordenone l'abbattimento dei tigli nell'area dell'ex fiera interessata dal contestato progetto per il nuovo polo Yang. Per sorvegliare il cantiere è stato disposto un notevole spiegamento di forze dell'ordine, sarebbero una cinquantina gli agenti che seguono le operazioni. Sulla questione c'è un contenzioso anche giudiziario aperto fra l'amministrazione comunale che ha predisposto il progetto e il comitato che si batte per la salvaguardia degli alberi storici. Il 21 marzo si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio di Stato in via cautelare. La direttrice generale dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Anna Luttmann, è stata scelta dai suoi omologhi delle regioni italiane come vicepresidente per rappresentare i territori nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. È la prima donna a rivestire questo ruolo. La direttrice generale dice: «Non ho mai ricevuto pressioni dalla politica». È la prima donna a rappresentare i territori nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nella carica di vicepresidente, la presidenza assegnata d'ufficio all'Istituto ISPRA. Anna Luttmann, direttrice generale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia dal 2022, è stata scelta dai suoi omologhi delle regioni italiane per svolgere questo compito. Una carriera tutta interna all'agenzia, la sua ancora prima che fosse istituita, quando la protezione ambientale era in capo al servizio sanitario. Luttmann è la dimostrazione che il tetto di cristallo si può rompere anche partendo dal basso. Quali sono le principali sfide all'ambiente oggi? Sicuramente il contrasto ai cambiamenti climatici. È una sfida importante e per quello per me è importante dover poter usare il riciclo, cioè la materia prima deve girare il meno possibile, dobbiamo sfruttare quello che abbiamo dei nostri, tra virgolette, rifiuti. Da direttrice generale non ho mai sentito pressioni né dalla politica né da altri ambiti, assicura. Avevo solo ricevuto una telefonata nel ruolo precedente, rispedita al mittente, aggiunge. Noi abbiamo il nostro dato, il dato è oggettivo e quindi c'è un'indipendenza assolutamente data dal lavoro che facciamo tutti i giorni. Siamo in campo, campioniamo, i nostri campioni li portiamo nei nostri laboratori e i dati vengono messi a disposizione dei cittadini e i dati sono oggettivi. Sullo sfondo, i nuovi limiti di legge voluti dall'Unione Europea che potrebbero portare a sforamenti anche in Friuli Venezia Giulia. L'Europa abbasserà probabilmente di un quinto i limiti europei, stiamo parlando della qualità dell'aria, no? Sicuramente abbassando di un quinto ci saranno delle situazioni da monitorare, da verificare. Con Luttmann si è complimentato l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha spiegato come abbia voluto un'ARPA che faccia informazione e prevenzione prima ancora che repressione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Porcia il ciclo Donne Protagoniste alle 17.30 in sala Di Emozzo ospiterà la manager Eugenia Presot, che rappresenta la quarta generazione di una famiglia attiva da 90 anni nella lavorazione del cuoio e dei pellami. L'incontro, oltre a una pagina importante della storia imprenditoriale del territorio, consentirà anche di ricordare un'impresa sportiva straordinaria, la conquista del K2 a 70 anni dall'ascesa di Ardito Desio, che nel 1954 salì sulla seconda vetta più alta del mondo calzando gli scarponi realizzati proprio con il pellame lavorato nella conceria Presot. L'incontro sarà condotto dalla curatrice della rassegna Franca Benvenuti e sarà arricchito dalla proiezione di alcuni filmati. A Trieste viene presentato oggi il libro di Andrea Zannini, docente dell'Università di Udine, dal titolo Controstoria dell'alpinismo, appena pubblicato dalla Terza, un volume che mette in discussione la narrazione ormai consolidata sulla nascita dell'alpinismo, facendo risalire la passione per le vette a molto tempo prima. L'appuntamento è al Circolo della Stampa alle 17.30. A Zannini, che abbiamo contattato, abbiamo chiesto perché fosse necessaria una controstoria dell'alpinismo. La storia dell'alpinismo si è basata su un principio che io cerco di mettere in discussione, cioè che la montagna e la passione per salire le vette sono state introdotte nel Settecento dagli studiosi, gli scienziati e quindi dai cittadini dell'Ottocento. Invece, secondo i miei studi, è una passione che dura da secoli, era diffusa fra le popolazioni di montagna, che avevano il gusto, come si può dire, l'attrazione intellettuale per le alte vette prima che queste fossero scoperte dalle élite intellettuali europee. Si è scritta la storia dell'alpinismo a partire appunto dal contributo dei ginevrini per la salita del bianco, degli inglesi nell'Ottocento, nell'età d'oro dell'alpinismo, lasciando da parte il fatto che molto spesso quando si arrivava sulle cime, quando questi sedicenti primi alpinisti arrivavano sulle cime, magari trovavano tracce di passaggio che risalivano a non si sapeva bene quando. Questa rimozione è venuta anche in Friuli Venezia Giulia? Ma diciamo nelle Alpi Giulia e nelle Alpi Carniche ci sono vari casi di cime che sono state salite prima dell'età d'oro dell'alpinismo, dal Canin al Forato al Mangart, e soprattutto c'è l'episodio fondamentale del Tricorno, Triglav, salito nel 1778, cioè 8 anni prima del Monte Bianco, da una cordata composta da un medico, da un minatore, da vari notabili dei paesi ai piedi del Tricorno. È vero che fu stimolato da un mecenate, però di fatto le capacità erano quelle dei valligiani del tempo. Fotografia sarà inaugurata alle 18 a Trieste al Circolo Fincantieri Varzila in Galleria Fenice, la mostra Incontri nella Trieste degli anni 90, in ricordo del fotografo e videomaker Federico Manna. Propone i ritratti di 20 celebri personaggi triestini e fu concepita dall'autore più di 30 anni fa, restando però inedita. Ora il progetto si concretizza grazie alla famiglia di Federico Manna e al circolo fotografico di cui fece parte. Fra i ritratti ci sono quelli di scienziati come Margherita Hack, Piero Budinic e Abdus Salam, personaggi della cultura e del teatro come Claudio Magris, Ugo Amodeo, Ave Ninchi, Orazio Bobbio, dell'arte come Ugo Carà e Marion Wulz, giornalisti e politici come Manlio Cecovini e Demetrio Volcic. La mostra si potrà visitare fino al 10 maggio. Le giornate FAI di primavera si terranno sabato e domenica 23 e 24 marzo. In Friuli Venezia Giulia sono 8 le località in cui si potranno visitare 20 luoghi che spesso non sono accessibili al pubblico. Sentiamo qualche curiosità da Michele Dacol, rappresentante del Fondo per l'Ambiente Italiano. A Pordenone, l'ospedale dei Battuti, oggi Casa De Luca, che è situato di fronte alla Chiesa del Cristo, che normalmente è visitabile, ma questo palazzo era privato. Che cosa vi avveniva? Beh, per esempio vi soggiornavano per circa 40 giorni le persone in attesa di indulgenza dalla curia papale avignonese. Ma abbiamo anche una centrale idroelettrica, la centrale a Valcellina, a Ponte Giulio, che appunto è un luogo dove si produce attraverso l'acqua l'energia, ma pensiamo anche alla duplice apertura qui a Trieste dell'astronomia. Poi andiamo a Cervignano con la casa studio privata del pittore Giuseppe Sigaina e lì accanto, lì vicino, il Consiglio Municipale di Cervignano, dove si possono vedere i dipinti da lui realizzati. E poi, per esempio, il Museo Michele Gortani di Tolmezzo recentemente ha avviato un percorso di riorganizzazione e di ritessimento del rapporto con il territorio, un museo che racconta la storia della Carnia. Nelle giornate FAI di primavera, il 23 e il 24 marzo, si potranno visitare anche aziende agricole. A Cividale, due aziende agricole biologiche che raccontano il legame del nostro territorio con la terra. E poi, per chiudere, a Gorizia, tutto il mondo del Parco Basaglia e di che cosa ha significato questo anniversario che viviamo in questi giorni, ovvero il centenario della sua nascita. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Un romanzo ispirato al caso Resinovic si intitola Creusa Dodiao, finale immaginario per una storia vera, e lo ha scritto il genovese Giorgio Cavagnaro, che questa sera alle 18 lo presenterà al Caffè Libreria San Marco di Trieste. Una tranquilla signora di 63 anni ritrovata morta alcune settimane dopo la denuncia della sua scomparsa, lo scenario di una fine inspiegabile, partendo dallo spunto di un cold case reale, trasferendo l'azione nella città di Genova, più familiare, spiega Cavagnaro, ho cercato di immaginarne una soluzione di fantasia seguendo le indagini del sostituto procuratore Arianna Picasso e del suo amico Teo, in attesa di sviluppi. Lo sport, il calcio, il Lecce ha ufficializzato l'ingaggio di Luca Gotti, che sostituirà sulla panchina giallorossa Roberto D'Aversa, esonerato dopo la testata, un giocatore del Verona. Gotti ha firmato fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. L'ex allenatore dell'Udinese verrà presentato tra poco alle 13. La squadra friulana farà visita al Lecce il 12 maggio. Intanto un'altra panchina della Serie A è cambiata, è quella della Lazio, sconfitta proprio dall'Udinese nell'ultimo turno. Maurizio Sarri si è dimesso e il suo posto è stato affidato al vice Giovanni Martuscello. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 12 e quasi 53 minuti, la prossima edizione è alle 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.